Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Oltre 100 crisi aziendali e migliaia di posti di lavoro a rischio, i metalmeccanici tornano in piazza a Roma e chiedono l'intervento del governo. Manifestazioni anche per la scuola, senza certezze sulla riapertura a settembre, dicono i comitati, siamo pronti a occupare. Caso Palamara, la Cassazione chiede il processo disciplinare per l'ex numero uno della ANM e altri 9 magistrati. Risparmiatori truffati, arrestato l'imprenditore Nicolò Pesce nel blitz, sequestrati anche 17 milioni. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Oltre 100 vertenze aperte per altrettante crisi aziendali che rischiano di lasciare migliaia di persone senza un posto di lavoro, ma anche di lasciare l'Italia senza un tessuto industriale. Per richiamare l'attenzione del governo su questo, stamattina a Roma c'è stata la manifestazione nazionale dei metalmeccanici convocata dai sindacati FIM, FIOM, UILM in Piazza del Popolo a Roma, e allora cominciamo proprio da qua. Per la ripresa delle trattative dopo qualche mese, soddisfatte le parti sociali, Federmeccanica assista alle sindacati, in corso per il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici, sul tavolo ancora gli aumenti sui minimi, nelle piazze le tute blu lanciano soprattutto un richiamo al governo, seduti distanziati in numero contingentato, i sindacati vogliono dare un messaggio all'esecutivo, oltre alle risposte sugli ammortizzatori sociali, un'azione comune con i lavoratori per tutti i 144 e più tavoli fermi, vecchi e nuovi, crisi non solo che da anni colpiscono siderurgia, automotive, elettrodomestico, ma altre se ne aggiungono per l'emergenza Covid-19, come spiega Emilio Miceli, segretario confederale nazionale della CGIL. Sul tavolo c'è intanto la possibilità che non si fermi un dialogo contrattuale che era cominciato. Noi abbiamo l'esigenza che le grandi vertenze industriali che sono presso il MISE, ma non solo presso il MISE, possano arrivare a una conclusione. Le tute blu indicano una strada europea e sostenibile. È essenziale che il governo utilizzi le risorse nazionali ed europee per realizzare un reale Green New Deal, investendo nei settori strategici dell'industria. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Intanto, secondo l'indagine trimestrale di Federmeccanica, le imprese del settore vedono nero. Una su tre pensa di tagliare ancora posti di lavoro nei prossimi sei mesi. Il 71% delle aziende intervistate prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre. E manifestazione oggi anche sul fronte scuola nel pomeriggio in diverse città italiane, organizzate dal Comitato Priorità alla Scuola contro le linee guida della ripartenza a settembre. Presidi, docenti, genitori, ma anche le regioni contestano il ritardo, la vaghezza e la mancanza di risorse del piano per settembre presentato dal ministro Azzolina. Poco fa una dichiarazione del presidente della conferenza Stato-Regione Bonaccini ha detto che le linee guida per la scuola non sono ricevibili. È un piano che sarà tra l'altro al centro oggi proprio della trattativa tra le regioni e il governo nella conferenza Stato-Regioni. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso invece con la cronaca, la Procura Generale della Cassazione ha chiesto il processo disciplinare per 10 magistrati, tra cui c'è anche il nome dell'ex numero uno dell'ANM, il sindacato dei magistrati, Luca Palamara. I primi punti fermi nella vicenda Palamara li mette la Procura Generale della Cassazione. Chiesto allora il processo alla sezione disciplinare del CSM per 10 magistrati relativamente all'incontro avvenuto in un albergo di Roma in cui si discuteva di nomine ai vertici delle principali procure italiane. Ad annunciarlo il procuratore generale del Palazzo di Piazza Cavour, Giovanni Salvi. Il giudizio disciplinare è stato chiesto oltre che per Palamara, per i 5 ex togati del CSM dimissionari lo scorso anno, Lepre, Spina, Cartoni, Morlini, Criscuoli, Ferri, l'ex PM Romano Fava, l'ex PM della DNA Sirignano. Le decisioni annunciate da Salvi sono il frutto del lavoro di un mese della task force istituita alla Procura Generale con il compito di passare al setaccio la valanga di messaggini e chat contenute nel cellulare dell'ex presidente dell'ANM, presunte richieste di favori, interventi di autopromozione per incarichi direttivi, sponsorizzazioni di altri colleghi o all'opposto tentativi di boicottaggio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore. I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia di 9,4 milioni e quanto emerge dal conteggio Come sapete, della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati oltre 35.000 nuovi casi, più 42.000 contagi invece in un giorno in Brasile. E in Italia invece preoccupa il nuovo focolaio a Mondragone. 49 positivi, quasi tutti bulgari, residenti in un alveare, un complesso abitativo di 5 palazzi, gli ex Cirio a Mondragone, in provincia di Caserta. I 5 edifici dal lunedì 22 giugno sono stati decretati zona rossa. Le persone positive sono tutte asintomatiche, ma, ed è questa la cosa che preoccupa di più, ne mancano all'appello molti. Almeno 4 tra i positivi sono irrintracciabili. Molti inquilini, specie tra gli stranieri, non risultano censiti. Ieri il sindaco Vincenzo Pacifico, contestato dagli inquilini, ha ipotizzato che l'origine del focolaio dipenda dal ritorno a Mondragone dei braccianti bulgari. Nel momento in cui sono state riaperte le frontiere, i cittadini bulgari sono venuti subito all'inizio della stagione di raccolto. Allo stesso tempo si è avuta una recrudescenza anche nella loro patria. Come a Tönning in Germania, il focolaio di Mondragone porta alla luce una drammatica realtà economica e sociale, migliaia di braccianti che lavorano per 12 ore a 3 euro l'ora nei campi, tariffe sotto l'euro per i minori. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora con la cronaca, l'imprenditore Niccolò Maria Pesce è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano per il riciclaggio dei risparmi investiti da parte di migliaia di risparmiatori truffati. Si tratta di una tranche dell'inchiesta sulla truffa dei diamanti, anche ai danni di persone note, come per esempio Vasco Rossi. È finito in manette l'imprenditore Niccolò Maria Pesce, titolare della società di consulenza Camet. La Guardia di Finanza di Milano lo ha arrestato con l'accusa di riciclaggio dei risparmi investiti da migliaia di cittadini inconsapevoli, sequestrati anche 17 milioni di euro. L'operazione di oggi è una tranche dell'inchiesta del 2019 sulla maxi truffa da 500 milioni di euro a risparmiatori eccellenti come Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli. In quel caso, una serie di società, attraverso il sistema bancario, promuoveva diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all'effettivo valore. All'imprenditore Niccolò Maria Pesce, i finanzieri sono arrivati seguendo i flussi finanziari e ricostruendo così il complesso meccanismo di riciclaggio, utilizzato per occultare i proventi della truffa. Pesce avrebbe reinvestito i propri guadagni illeciti in molte attività, da un ristorante a Forte dei Marmi a una sartoria, da una cava di marmo a una concessionaria di automobili. Marco Oliva, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Aiuti di Stato in questa fase di emergenza post-Covid per quanto riguarda l'economia. Il caso Lufthansa, la Commissione europea ha approvato il piano tedesco con il quale lo Stato contribuisce con 6 miliardi di euro alla ricapitalizzazione della compagnia aerea. La Lufthansa ha anche stretto un accordo con i sindacati per una serie di sacrifici legati proprio al superamento della crisi Covid. Decolla a Bruxelles il piano di salvataggio di Lufthansa. Dall'Unione Europea è arrivato il via libera alle misure per ricapitalizzare la compagnia. La Germania contribuirà con 6 miliardi di euro alla ricapitalizzazione di Lufthansa, insieme a una garanzia statale di 3 miliardi su un prestito, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. Ma ci saranno condizioni a tutela della concorrenza. In particolare Lufthansa, ha sottolineato Vestager, si è impegnata a rendere disponibili slot e altri asset presso gli hub di Francoforte e Monaco. Oggi si attende l'ok dell'assemblea degli azionisti, ma è già di ieri il sì dell'azionista di maggioranza con il 15,5% Heinz Hermann Thiele, tornato sui suoi passi dopo la riluttanza espressa nei giorni scorsi per la partecipazione statale con una quota del 20%. Lufthansa e il sindacato dell'equipaggio di cabina UFO poi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per avere risparmi per 500 milioni. Intanto l'australiana Qantas ha annunciato la soppressione di 6.000 posti di lavoro e il mantenimento a terra di un centinaio di velivoli. L'amministratore delegato Alan Joyce ha spiegato che il piano di ristrutturazione punta a salvare la compagnia dalla peggior crisi del settore. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Doccia fredda ieri per gli amanti del sport e del calcio amatoriale. In particolare il comitato tecnico scientifico ha detto no alla ripartenza dello sport di contatto. La riapertura era prevista invece proprio per oggi, ma dovrà aspettare ancora un po'. Il no del Comitato Tecnico Scientifico alla ripresa del calcetto e degli sport di contatto a livello amatoriale diventa l'occasione di uno strappo tra gli scienziati e il governo. Ad andare all'attacco è il ministro Spadafora, che aveva garantito agli operatori dei centri sportivi la possibilità di riaprire e rimettersi in moto a breve, ma che ha dovuto incassare lo stop del CTS. Sono riprese tutte le attività, gli amici passano ora allo stesso tavolo, vediamo praticare ogni sport nei parchi o in spiaggia, fa notare il ministro in una nota in cui esprime il suo dissenso, chiedendo al collega della Salute Speranza di tenerne conto nell'esprimere un parere che dovrà però misurarsi fatalmente con il no scientifico. In gioco la tenuta di un mondo che è in crisi. Nelle scorse settimane le regioni hanno varato norme e tempistiche differenti, mentre al 12 giugno 131.000 lavoratori sportivi avevano già fatto richiesta dei sussidi da 600 euro. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio giocato invece ieri nei posticipi della 27esima di Serie A, l'Atalanta ha fermato di rimonta 3-2 la Lazio a Bergamo, pari per l'Inter 3-3 con il Sassuolo, vittoria 2-1 infine per la Roma in casa contro la Sampdoria. In classifica la Juventus allunga così il passo su Lazio e Inter. 13:11, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno, tutte le altre notizie, ripartiremo dalla scuola, oggi manifestazioni nel pomeriggio e poi il caos autostrade in Liguria, cercheremo di capire che cosa sta succedendo e quanto pesano questi lavori di manutenzione indifferibili ma che stanno causando veramente un caos nella regione. Poi ve lo anticipo dalle 13:30, virus indebolito sì o no? Entreremo in questo dibattito con l'infettivologo Marcello Tavio e visto che in Italia il virus sta sicuramente causando conseguenze meno gravi ma all'estero non è così, cercheremo anche di capire cosa si rischia per esempio con il turismo degli stranieri in Italia ma anche degli italiani di ritorno dai paesi stranieri. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Hai visto il mio nuovo Xiaomi Mi 10? Ha la fotocamera da 108 megapixel e fai video in 8K. Ah, vediamo. Guarda questo, è Luca sulla moto d'acqua. Che dettagli, le onde, gli spruzzi. È Luca che cade in acqua. Ora lo condivido e in un attimo lo vedranno tutti. Ho la rete top quality Wind 3. Guarda l'estate in modo nuovo. Con Wind 3 Unlimited puoi avere Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Lite con giga illimitati. Da 1,99€ in più al mese anche con anticipo zero. Per info, anticipi, metodo di pagamento, costi e termini dell'offerta ti aspettiamo nei Wind 3 Store. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. I metalmeccanici tornano in piazza per chiedere l'intervento del governo, migliaia di posti di lavoro a rischio. Intanto Federmeccanica nell'indagine congiunturale dice produzione dimezzata e previsioni negative per il secondo semestre. Manifestazioni anche per la scuola, senza certezze sulla riapertura a settembre, dicono i comitati, siamo pronti a occupare, ne parliamo tra poco. Caso Palamara, la Cassazione chiede il processo disciplinare per l'ex numero uno dell'ANM. Nuovo incidente sulla A12 Tiris Ribalta a causa dei restringimenti di carreggiata per i lavori. Toti chiede al Ministero di dilazionare i cantieri. Cari ascoltatori, eccoci qua e di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, come avete sentito dai titoli, oggi manifestazioni sia sul fronte del lavoro per quanto riguarda i metalmeccanici a Roma, ne abbiamo già parlato, sia per quanto riguarda la scuola. Nel pomeriggio in diverse città italiane il comitato priorità alla scuola genitori, insegnanti, studenti in piazza contro le linee guida sostanzialmente per la ripartenza a settembre, su cui si sono espressi presidi, docenti, genitori ma anche le regioni. È di poco fa la dichiarazione del presidente della conferenza Stato-Regione Bonaccini che dice questo piano è irricevibile, si contesta soprattutto la vaghezza delle indicazioni, il ritardo con cui è stato messo in piedi ma anche la mancanza di risorse per mettere in, per creare queste soluzioni, per rendere la didattica, per garantire la didattica in sicurezza a settembre. Ne parliamo con una delle promotrici delle manifestazioni di oggi, lei è una portavoce del comitato priorità alla scuola, Gloria Ghezzi, buongiorno e benvenuta. Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamata. Allora, lei è un'insegnante di storia e filosofia al liceo Torricelli Ballardini di Faenza. Sì. E questo è un comitato, tra l'altro, che è sorto recentemente. Questa è la prima domanda che le voglio fare, è proprio questa, cioè la scuola è già un ambito abbastanza sindacalizzato, insomma, no? Lo sappiamo. C'è un nuovo comitato che mi sembra anche, o forse è una speranza la mia, cerchi anche un po' di superare le classiche divisioni tra genitori e insegnanti su tante tematiche. In particolare voi siete partiti nel mezzo della fase buia dell'epidemia di coronavirus, quando la scuola era veramente, come dire, dimenticata, nessuno ne stava quasi più parlando. Come nasce il comitato Priorità alla Scuola? Lei prima diceva del ritardo del governo. Noi non siamo stati in ritardo, noi siamo stati, diciamo, tempestivi, perché fin dal 18 aprile, quando abbiamo scritto la prima lettera a Zazzolina, abbiamo coniugato tre anime che insomma sono della scuola: l'anima degli insegnanti, io sono insegnante, l'anima dei genitori, gli altri diciamo del comitato promotori sono genitori, e poi anche gli studenti. Quindi sì, nasce proprio nel pieno del lockdown, quando ci siamo accorti che nessuno parlava di scuola. Quando si parlava della riapertura si parlava soltanto delle attività produttive, dimenticando che la scuola è un'attività produttiva che produce un bene inestimabile, perché produce cittadini, e quello nessun altro può farlo. In effetti in questo periodo c'è stata anche un po' di, come anche in altri momenti, insomma, di incomprensione, io credo, tra gli insegnanti che si sono trovati a dover gestire la didattica a distanza non avendolo mai fatto prima, i genitori che giustamente pretendevano che un qualche servizio e soprattutto, diciamo, educativo, no, arrivasse ai figli, ai ragazzi. Quindi voi cercate anche di superare questa divisione, e mi sembra un fatto positivo. Però andando sul concreto, Ghezzi, quale potrebbe essere una proposta per superare questa situazione, per arrivare pronti a settembre? Perché insomma, le critiche al piano Azzolina sono state fatte, è un piano, certo, che rimanda tutto ai presidi, non ci sono risorse. E che cosa? Voi che cosa proponete? Ma allora, noi un po' di risorse bisogna che continuiamo a chiederle, perché non è ammissibile che ne vengano concesse la metà di quante sono concesse dall'Italia. E in primis quelle risorse andrebbero spese per nuovi docenti, per fare più classi con meno studenti e più insegnanti. Gli uffici scolastici regionali hanno fatto le classi con i criteri pre-Covid, per cui ci saranno ancora, se tutto resta com'è, classi con 30 studenti. Questo è inammissibile. È inammissibile che il governo giochi ancora a contrapporre. Ma ci sarebbe tempo, professor Ghezzi, per fare questo? Per fare questo gli uffici scolastici regionali possono ancora intervenire, certo che sì, certo che sì. E perché la cosa che ci preoccupa ancora di più è che si continua a contrapporre il diritto all'istruzione col diritto alla salute, no? Sì. Questa cosa che per istruirci, perché l'istruzione non è un servizio, è un diritto, dobbiamo stare a casa, no? Le scuole possono tornare ad essere dei presidi sanitari, le vecchie infermerie, proprio per fare cultura della prevenzione contro questo virus, contro i prossimi, perché non si può delegare a un bidello, a un dirigente o a un insegnante la responsabilità di dire tu stai a casa, tu. Perché la proposta che c'è adesso sul tappeto, professoressa Ghezzi, è quella di dire, nel caso, come diceva lei, di una classe con 30 ragazzi, dividerla in due, metà fanno lezione con gli insegnanti, magari ore accorciate per favorire una flessibilità d'orario, e l'altra metà stanno con educatori extrascolastici, cioè addirittura volontari. Così a passare il tempo anche un po', questo è il sospetto. Non si capisce questa riduzione del tempo scuola come verrà compensata, sembra attraverso l'introduzione del privato, e questo è, noi siamo fortemente contrari, perché è un'aziendalizzazione della scuola che già è stata operata nella sanità, abbiamo visto con quali risultati, e poi con quali competenze, con quali garanzie, e poi se questi servizi saranno a pagamento chi li pagherà? Le famiglie, che sappiamo bene hanno le difficoltà dovute alla situazione economica. In sostanza, se ho capito bene, voi chiedete che ci sia un fondo aperto dal quale i presidi possano attingere per poter ovviare alle carenze d'organico qualora le classi così numerose richiedano invece sdoppiamenti. Attenzione, però, fondi a seconda delle necessità di ciascuno, perché se si delegano i presidi è chiaro che chi ha classi più ampie, zone in cui poter mettere gli studenti, avrà delle scuole potendo farli entrare in classe, gli altri no. Non vogliamo scuole di serie A e scuole di serie B all'interno delle stesse città. Cioè, occorre che ricordare che il diritto all'istruzione è un diritto che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale. Non si possono lasciare i presidi delle scuole più svantaggiate a vedersi ancora peggiorata la loro condizione. Grazie alla professoressa Gloria Ghezzi, una delle portavoci del Comitato Priorità alla Scuola. Grazie, buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Arrivederci in piazza. Da segnalare il tentativo, come avete sentito, poi non conosco i dettagli di questo comitato, non so se ci sono all'interno fenomeni di politicizzazione come accade o anche di strumentalizzazione o quello che volete, però mi sembra molto interessante il tentativo di superare le divisioni tra il mondo degli insegnanti e il mondo dei genitori, che in questi anni è andato sempre di più, mi sembra, divergendo. Invece questa volta si cerca proprio di fare fronte comune per il bene della scuola, che è un bene fondamentale e fin qua sicuramente uno degli ultimi, diciamo, anelli della catena della ripartenza, della fase 2, 3, 4, tutti i numeri che volete. Adesso invece prendiamo una pausa con Daniele Biacchessi, rievochiamo un anniversario, 40 anni dal celebre Bob Marley a San Siro di Milano. Il 27 giugno 1980, quando Bob Marley trionfa con il suo reggae allo stadio di San Siro di Milano davanti a 100.000 persone, l'Italia è in balia di gravi attentati terroristici come Ustica e Bologna. Il concerto dunque si trasforma nel primo appuntamento di massa della musica in Italia. 100.000 ragazzi ammassati tra prato e gradinate della Scala del Calcio, in un clima calmo e rilassato dopo gli anni delle contestazioni, come quella degli autonomi inscenata solo 3 anni prima al Vigorelli di Milano contro il chitarrista Carlo Santana. Deve servire una scossa, il terremoto nella palude stagnante della musica in Italia si chiama Bob Marley. Lui non è una star del rock, ma un profeta, un uomo umile che propone idee molto chiare, un leader naturale. Sale sul palco di San Siro poco dopo le 21, anticipato da un urlo assordante e da una lunga introduzione cantata solo dalle sue coriste. E poi il brano Marley Chant. Si capisce subito che dietro a Marley c'è qualcosa che va al di là della musica: emozioni, forza delle idee di giustizia sociale e di riscatto. Ci sono i ghetti di Kingston e c'è il ritorno verso Mama Africa. Quelle passate a San Siro sono 2 ore e mezza precise, composte da suoni ipnotici, accendini accesi, balli continui e prolungati, amori nati proprio quella sera, piccole storie che attraversano la grande storia d'Italia, il giorno in cui anche Dio balla reggae e la musica travolge un'intera generazione. Insomma, dopo le parole di Daniele Biacchessi su questo grande anniversario, la musica, le note di Bob Marley, che ascolteremo naturalmente per ore. Adesso no, invece ci occupiamo di un'altra notizia di oggi e lo facciamo salutando il nostro collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino. Ciao, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Avremmo ascoltato volentieri Bob Marley, di la verità, invece di occuparci del caos autostrade in Liguria, Maurizio. Perché... diciamo che possiamo probabilmente consolarci in coda ascoltando Bob Marley. Sì. Oppure possiamo pensare che chi ha fatto il piano per i lavori delle autostrade liguri si sia fumato una canna anche lui, un po' come era ai tempi di Bob Marley. Scherzi a parte, questa è la tesi del governatore e presidente della regione Liguria, Toti, che critica molto questo piano di lavori. Però sono lavori importanti, in alcuni casi lavori indifferibili, stanno causando delle difficoltà. La notizia di oggi è che un TIR si è ribaltato sulla 12 per via di questi restringimenti improvvisi di carreggiate. Io la prima cosa che ti chiedo, Maurizio, è proprio questa: ha ragione Toti a dire che questo piano di lavori è stato concepito male, o dopo il lockdown, dopo le attese per questi lavori che vanno fatti perché sono lavori strutturali, non si poteva fare molto diversamente da così? Esatto, diciamo che Toti non è tanto vittima di una canna quanto delle allucinazioni che possono prendere i politici vicino alle elezioni, perché purtroppo in Liguria sono prossime le elezioni e quindi si è scatenata un po' una corsa fra appunto i politici di ogni colore, devo dire, sì. Che chiaramente millantano, diciamo, la possibilità di ottenere da Autostrade e dal Ministero una rimodulazione di questi lavori che stanno sconvolgendo obiettivamente la Liguria, questo sia per i liguri, sia per i tanti turisti e sia anche per il traffico internazionale di merci soprattutto. Il punto vero è che questi lavori in realtà sono legati a ispezioni che sono obbligatorie per legge, non sono state fatte o sono state fatte male per anni, addirittura ieri il procuratore di Genova Cozzi ha parlato di ispezioni completamente omesse, quindi adesso bisogna farle, c'è un termine di legge e questo termine va rispettato, non solo perché la legge è legge, ma anche e soprattutto perché ci sono stati dei crolli, l'ultimo è stato il 30 dicembre scorso, voglio ricordare, sono venute giù 2,5 tonnellate di cemento dalla volta di una galleria dell'A26 e solo perché c'era poco traffico non ci è scappato il morto. Quindi queste cose sono necessarie per la sicurezza, ma non una sicurezza ipotetica, tant'è che poi in queste ispezioni cosa succede? Si fanno di notte, ma se si trova la tra virgolette sorpresa, sì, che qualcosa non va, poi la mattina dopo non si riesce a riaprire come programmato e purtroppo qui non c'è nessun calendario da fare, il calendario purtroppo lo fa il degrado ed è un degrado legato alle carenze di manutenzione di questo gestore che ha guadagnato tantissimi profitti e che ancora adesso tenta anche a riconoscere degli abbuoni sui pedaggi che sono abbastanza minimi rispetto a quello che è il disagio. Questa potrebbe essere effettivamente una compensazione, cioè un tratto autostradale in grande difficoltà, non dico gratis, ma insomma da rendere, il cui costo andrebbe abbassato sicuramente per venire incontro alle esigenze degli automobilisti, ma in questo momento mi metto dalla parte degli automobilisti e naturalmente non entro nel merito della controversia, però mi sembra di capire, Maurizio Caprino, che effettivamente insomma questi lavori sono indifferibili. Voglio dire, se chiudi un cantiere e lo rimandi, poi ti cade un calcinaccio su un'auto e succede un incidente grave, voglio vedere poi chi si assume le responsabilità. Un'ultima cosa riguarda un aspetto infrastrutturale della zona importante, che è il famoso cantiere della Gronda, che dovrebbe partire. Non so se c'è già un inizio da qualche parte, Maurizio, oppure deve iniziare da zero. No, allora i cantieri sono stati già preparati, le opere propedeutiche, però non si può ancora partire in senso proprio, sì, perché chiaramente si deve aspettare che si decida l'annosa questione della revoca d'autostrade. Ovviamente perché non quel tratto è dentro, dice il ministro De Micheli, dentro il discorso delle concessioni, se non si chiarisce quello lei non può partire, questo, ma è proprio così? Assolutamente sì, perché dobbiamo ricordare che l'attuale concessione scadrebbe nel 2038, ma è già stata approvata dall'Unione Europea un differimento al 2042, quindi altri 4 anni in più di diritto di riscuotere pedaggi nel caso si facesse la Gronda, per cui è assolutamente cruciale per questo. Va bene, grazie ancora una volta Maurizio Caprino, buona giornata, buon lavoro. Noi alle 13.30 facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, anche se abbiamo problemi, lo sapete, con la lettura dei messaggi in questi giorni. Ve lo anticipo, tra poco entriamo nel dibattito sul virus indebolito oppure no, e che cosa si rischia per esempio con il turismo, visto che in Italia l'andamento è sicuramente basso, sotto controllo, ma all'estero non è così. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Metalmeccanici in piazza a Roma per ricordare che ci sono 100 crisi aziendali e migliaia di posti di lavoro a rischio. Manifestazione anche per la scuola, senza certezza sulla riapertura a settembre, dicono i comitati, siamo pronti a occupare. Caso Palamara, la Cassazione chiede il processo disciplinare per l'ex numero uno dell'ANM e altri 9 magistrati. Risparmiatori truffati, arrestato l'imprenditore Nicolò Pesce, nel blitz sequestrati 17 milioni. 13:36 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Leggo Elvio da Vicenza che dice: mi sembra paradossale che i presidi siano in prima linea contro le responsabilità attribuite dalle linee guida per la riapertura delle scuole quando, scrive appunto Elvio da Vicenza, per anni hanno rivendicato autonomia e ruolo dirigenziale. Effettivamente questa è una bella contraddizione che evidenzia questo ascoltatore. Che dire, credo che il punto non sia tanto e solo, credo di aver capito, la questione delle responsabilità, ma anche delle risorse. Può sembrare, diciamo, stantio come argomento, ma penso che sia vero. Le risorse attribuite ai presidi per poter esercitare queste responsabilità. Faccio un esempio che ha fatto prima la docente che era in collegamento con noi. Se io ho una classe di 30 alunni e non li posso far stare in una classe troppo piccola per via dell'emergenza Covid, dovrei sdoppiarla, ho bisogno di un insegnante in più, ho le risorse io preside per assumere questo insegnante, oppure devo andarmi a prendere un volontario di un'associazione del territorio che però non farà lezione ma farà qualcos'altro, con perdita evidente per tutto il sistema scolastico? Punto di domanda. Ancora no, nient'altro. Vai col punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. La Corte dei Conti l'ha detto chiaramente, il reddito di cittadinanza non è uno strumento per creare lavoro. Meno del 2% delle assunzioni sono passate dagli uffici dei cosiddetti navigator e la percentuale è quella che da anni segnala la quota di lavori intermediati dal collocamento pubblico. In questa fase di pandemia a settembre rischiamo quasi 2 milioni di nuovi disoccupati e il mondo, come ha detto il Fondo Monetario Internazionale, rischia di far tornare in stato di povertà il miliardo di persone affrancate dall'indigenza in questi ultimi anni. È evidente che questi scenari fanno svaporare nell'inconsistenza e nella ridicolaggine il mondo magico dei navigator con cui siamo stati costretti a baloccarci per mesi. Addirittura si diceva che avremmo avuto una app sul telefonino che ci avrebbe avvisato sui possibili sbocchi lavorativi, ma adesso il tema non è nemmeno far dimettere Mimmo Parisi dalla presidenza dell'ANPAL, e dovrebbe farlo subito, è chiedere conto di quel bluff a chi ne ha fatto una bandiera politica. E allora, come anticipato, l'argomento virus indebolito o no? È con noi Marcello Ottavio, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Anche direttore dell'unità operativa malattie infettive ad Ancona. Io so che lei non vuole entrare tanto in questo dibattito, in questa modalità, diciamo così, un po' buttata lì, con argomenti così un po' a casaccio. Però so anche che lei ha una sua opinione, non crede tanto a questa cosa dell'indebolimento del virus. C'è stata una lettera firmata da 10 suoi colleghi esperti che hanno voluto invece mettere a fuoco proprio questo, dicendo, insomma, le evidenze ci fanno capire che queste code di epidemia sono legate o alla RSA o a casi precedenti o a persone che hanno fatto il test e poi fanno un tampone ma sono per lo più asintomatiche, e hanno voluto in questo modo, come dire effettivamente il virus si è indebolito. All'estero però sappiamo che non è affatto così e tutti ci stiamo domandando da che parte dobbiamo guardare. Lei che ne pensa, professor Tavi? Io direi di guardare ai dati di fatto. Allora, non contesto il fatto che questi colleghi abbiano reso pubblico un dibattito scientifico, è perfettamente lecito, però bisogna avvisare le persone che trattasi di un dibattito scientifico, che è qualcosa che, in cui le diverse interpretazioni non devono sorprendere, è quello che rende ricco il dibattito scientifico, cioè, la scienza, dove nessuno ha la verità infusa, si discute e si valutano le varie ipotesi. Scusi se intervengo su questo, è proprio, lei dice, mi sembra un punto importante, è proprio la dimostrazione, al contrario di quello che sostengono in questo momento tanti che sono preoccupati dalla presa di posizione unilaterali della scienza che ci costringono poi a dei comportamenti eccetera, dice invece in questo caso è proprio il dibattito aperto che è dimostrazione di maturità scientifica. Sì. L'importante è che si dica bene, questa è la ricchezza del dibattito scientifico, splendido, però le persone a un certo punto chiedono, ma i dati di fatto quali sono? E allora andiamo a vedere quali sono i dati di fatto. I dati di fatto sono che l'epidemia è crollata, è andata vicina allo zero, al famoso caso zero che tutti cercano disperatamente di raggiungere, molto vicina, non perché il virus sia cambiato, questo è un'ipotesi, ma perché c'è stato un intervento importantissimo sui comportamenti delle persone, sui comportamenti sociali, sui contatti. Quindi tutti i sacrifici che abbiamo fatto, tutti quanti, nessuno escluso, durante il lockdown, sarebbero vanificati se noi dicessimo che è stato tutto merito del virus che è cambiato. Non è così. Cioè quei comportamenti, per quanto duri siano stati, hanno portato frutto, perché oggi l'epidemia è stata messa sotto controllo grazie a quei comportamenti. E allora la domanda a questo punto che si fanno le persone è: ma io devo continuare con questi comportamenti o no? La risposta è sì, continuare, perché altrimenti succede quello che succede in Germania. Il virus è vivo, è vegeto, può ancora generare un'ondata di casi. Se noi permettiamo che i singoli focolai epidemici che si producono si saldino fra di loro, si forma una seconda ondata epidemica. Su questo non c'è alcun dubbio. Però ecco un'altra cosa, scusi professor Tavio, che però si può aggiungere a quello che stava dicendo lei, glielo domando, è questa: si può dire che se effettivamente queste misure di contenimento, le mascherine, il distanziamento, lavarsi le mani eccetera, hanno effettivamente indebolito la propagazione del virus tanto che anche chi se lo prende ha forme molto molto lievi, si può dire che quindi non, come dire, la forma della malattia grave legata al coronavirus non si prenderà mai, o non si è mai presa, o non si prende adesso con, come dire, il respiro, il soffio, perché inizialmente, si ricorda, eravamo tutti preoccupati, certo, che bastava toccare una superficie vagamente, certo, infetta per essere a rischio. Questo lo possiamo dire oggi, che ci vuole un contatto prolungato, intenso, con chi ha sintomi per prendere il virus. Questo possiamo cominciare a dirlo o è ancora troppo presto? No, possiamo cominciare a dirlo, ma lo dicevamo anche prima, ovvero avevamo sempre detto che non servivano dei contatti diretti e stretti per contrarre la malattia. E quello, io so di essere ospite di Radio 24, una radio che fa della economia il fulcro della sua attività, quindi mi rendo conto che ci sia la preoccupazione che portare avanti dei comportamenti difensivi verso il virus possa ostacolare la ripresa economica. Io credo che questo non sia, ovvero che sia possibile addivenire a dei comportamenti saggi, dei comportamenti igienicamente validi, sì, con una ripresa quasi al 100% dell'economia. Questa è la sfida che dobbiamo lanciare e accettare. E allora le vorrei chiedere velocemente altre due cose relativamente a quello che stava dicendo lei, se possibile con risposte non troppo lunghe per questione di tempo. Il turismo, cosa si rischia oggi col turismo, visto che all'estero ci sono nuove ondate, ci sono stranieri che possono arrivare in Italia e italiani che possono andare e tornare? Allora, per il turismo, chiamiamolo turismo responsabile, ci sono delle regole che, se applicate, riducono al minimo il rischio di trasmissione, quindi il turismo è compatibile con questa fase epidemica. E invece, grazie per la sintesi, per quanto riguarda il tema scuole, che i bambini siano poco toccati dal Covid, anche questa mi sembra un'evidenza scientifica, che siano poco contagiosi loro stessi, è stato oggetto di alcuni studi, ma non mi sembra ci sia una certezza. In Italia, in Francia e Germania si sono per esempio riaperte le scuole, in Italia si sta ancora discutendo delle regole per settembre. È giusta tutta questa cautela in Italia o questi ritardi si spiegano in altro modo, con cause extra virus, extra Covid, legate a scuole vecchie, pochi insegnanti, oppure che ne so, un ministro poco adeguato? Azzolina è stata molto criticata, o ci sono cause proprio scientifiche? Allora, diciamo che sulle cause, sulle possibili cause infrastrutturali, io ovviamente non mi esprimo perché non ho competenza, su quelle politiche ancora meno, mi esprimo sul versante infettivologico, epidemiologico. Credo in tutta onestà che le scuole possano essere riaperte anche in Italia con le dovute precauzioni. Dico quello che avevo detto per il turismo: turismo e scuola riaperte sono compatibili con questa fase epidemica in presenza delle opportune precauzioni, quindi contando ancora sui nostri comportamenti e non su un virus che è cambiato ed è improvvisamente diventato buono. Grazie professor Tavio, grazie davvero. Grazie a voi. Beh, io queste risposte me le appunto mentalmente, me le appendo in camera perché me le voglio ricordare. Dipende dai nostri comportamenti, ce la possiamo fare anche a riaprire la scuola. Avremmo potuto riaprirla anche a giugno, come hanno fatto Francia e Germania. Dobbiamo smetterla di vivere nella paura, bisogna vivere nell'organizzazione delle situazioni, senza commissioni, ma affrontando i problemi, ecco, così, un po' più concretamente. Ah, va bene, dai, Carlo Genta. Ciao. Allora, oggi di che parlate, visto che il materiale ce l'abbiamo alle spalle, però domani si riparte. Tanto sto vedendo che, a proposito di quanto stavi dicendo, anche il calcetto bisognerà aspettare. CTS frena nonostante le pressioni di Spadafora. Si gioca a calcio, ma giocano a calcio i professionisti in Serie A, e stavo notando come ogni giorno è una specie di lunedì, perché abbiamo tanti argomenti dalla notte del calcio, e ieri sono importanti perché c'è stata una super partita Atalanta-Lazio, con l'Atalanta che ha vinto in rimonta, l'Inter che frena e la Juventus che dalla poltrona gode perché guadagna 2 punti di vantaggio su entrambe. Quindi si partirà da qui, e poi la Roma, che con Dzeko che nasconde per il momento i suoi problemi societari, che sono gravi, sotto il tappeto con 2 splendidi gol. Perché? Non mi fare perché, andare perché, di traverso perché, a fine settimana. Perché insomma le nuvole sulla società Roma sono pesanti. Ci sono problemi anche sul pagamento degli stipendi, si conta sugli aiuti e sulla decretazione d'emergenza, e se non cambiano i verdi societari io immagino un'estate di trading ancora, di grandi cessioni. Ai ai ai, va bene, grazie Carlo, l'appuntamento col pomeriggio sportivo naturalmente a partire dalle 14, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Effetto giorno. E allora, finestra aperta sul mondo come ogni giorno a questo orario, e come sempre quando non è presente Giulia Crivelli lo facciamo attingendo dal ricchissimo serbatoio di Giampaolo Musumeci e compagni. Nessun luogo è lontano. Ciao Giampa. Ciao Alessio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E allora, so che oggi parlerete inevitabilmente di Libia. Ieri c'è stata la visita del ministro degli esteri Di Maio. Che bilancio possiamo fare di questo dossier delicatissimo per noi dopo la visita di Di Maio? Ma allora, Di Maio ha parlato molto poco. Più che altro sia Luigi Di Maio che il premier Fayez al-Sarraj si sono dedicati e affidati soprattutto ai post su Facebook. Quello che è emerso, e ce l'ha confermato anche pochi minuti fa una nostra fonte a Tripoli, è che probabilmente verranno accolte le modifiche che l'Italia ha chiesto di fare al memorandum del 2017, un memorandum che comprende anche la gestione dell'immigrazione. Secondo queste indiscrezioni, Sarraj e il governo di Tripoli si sarebbero assunti l'impegno di un pieno e totale rispetto dei diritti umani dei migranti che rimangono in Libia. Se e come riusciranno a, come dire, cambiare anche l'assetto dei centri di detenzione, questo ovviamente è tutto da vedere. Al di là poi, Alessio, delle solite frasi di programmatica, insomma di prassi che fanno i ministri degli esteri in questo caso, c'è stata una leggera stoccatina da parte di Luigi Di Maio, perché ha detto al premier al-Sarraj che tutti dovrebbero rispettare l'embargo sulle armi e Irini dovrebbe svolgere il suo ruolo, che è una stoccata che fa riferimento a quei cargo turchi che portavano uomini e mezzi che sono più volte sbarcati in territorio libico. Quindi insomma un Di Maio che ha cercato di far valere le posizioni italiane di fronte alla Turchia, che come sappiamo ha messo la quinta e sta guadagnando passi anche dal punto di vista economico, perché si è assicurata una serie di appalti per la ricostruzione. Anche la Russia è al centro un po' dello scenario internazionale per questo referendum costituzionale o insomma di modifica. Com'è? Spiega. Sì, allora sostanzialmente, se le cose vanno bene, e naturalmente parlo dal punto di vista di Vladimir Putin, entro il 1 luglio si è iniziato a votare da adesso fino al 1 luglio a Mosca, anche online, per un referendum con risposta secca sì o no cambiare la Costituzione. Fra i vari emendamenti alla Costituzione c'è un articolo che permetterà permetterebbe a Putin di rimanere in carica, pensate, fino al 2036. Se l'Economist qualche anno fa aveva fatto una copertina celebre, mirabile, con Putin ritratto come uno zar, non so a questo punto i visualizer dell'Economist che cosa dovranno inventarsi, perché fra l'altro in rete, Alessio, circolano dei meme molto divertenti con un Putin invecchiato, sì. No, in una sorta di proiezione nel futuro, ma addirittura per dare il senso di questa immortalità dello zar Putin, viene collocato anche in eventi del passato lontanissimo con un Putin sempre vivo. Sai quei film in cui gli alieni sostanzialmente, sì, albergano nel mondo da millenni? Ecco, anche la rete si è un po' scatenata. Al di là di questo è evidente che c'è una deriva autocratica in Russia, che l'opposizione su tutti i Navalny sta bollando come assolutamente antidemocratica. Staremo a vedere, si inizia oggi a votare, si finirà il 1 luglio, direi che l'esito è piuttosto scontato, avremo lo zar a vita fino al 2036. Beh, insomma, a me scappava da ridere mentre la raccontavi in questo modo, sì. Ma c'è veramente da preoccuparsi. Allora, io non ricordo la data, diciamo, in cui è iniziato il 2000, il putinato. In Italia cosa c'è? C'è Berlusconi in piena fase d'oro. Pensate un attimo a ritrovarvelo ancora per altri prossimi 10 anni, cioè veramente... Cioè, di che inorridire. Giampaolo, al di là poi di quello che si pensi di Putin in quanto, diciamo, tale, come politico. Assolutamente. Che altro? Ma allora, ci stiamo concentrando su una nuova... Ieri parlavamo di crimini di guerra e Corte Penale Internazionale. Oggi, guarda caso, la cronaca ci restituisce un altro caso che, se confermato, sarebbe gravissimo. Perché il presidente del Kosovo, Hashim Tashi, è stato accusato di crimini di guerra da uno speciale organo che ha sede all'AIA. E sarebbe stato accusato di centinaia di omicidi, di rapimenti e di torture. All'epoca era il 1998-99, lui faceva parte delle milizie kosovare che si battevano per l'indipendenza dalla Serbia e pestarono duro soprattutto sulla popolazione serba. Poi i serbi stessi contrattaccarono, poi arrivò in campo l'ONU, la NATO, insomma sappiamo come andarono le cose. Per anni, secondo la procura dell'AIA, Tashi, ma anche altri 9 comandanti, hanno cercato di coprire questa inchiesta, questa indagine che adesso sta emergendo in tutta la sua forza e la sua virulenza, e quindi cercheremo di capirne qualcosa in più. Ne scopriremo sicuramente di più alle 16 con Nessun Luogo è Lontano. Grazie Giampaolo. Ale, grazie. Buon lavoro. È tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi di regia, Elisabetta Fusconi in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, buona giornata anche da me, Alessio Maurizi. Ciao.